Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. A 30 anni penso che sia l'età per potersi mantenere in qualche modo. Bisognerebbe darsi da fare. Certo. Bisognerebbe darsi da fare, specialmente a Rimini c'è modo di poter guadagnare qualcosa, insomma. 1.000 euro è comunque esagerato, però voglio dire, finché uno studia o che comunque con tutta la buona volontà non trova, poverino, il lavoro, perché adesso c'è anche questo problema, un genitore se può, non 1.000 euro sicuramente, però insomma qualcosino, comunque che continui a vivere in casa, ma mi sembra che questo sia un po' esagerato, insomma. Dice, glieli danno anche 54 anni, però mi sembra un po' un'esagerazione. Penso ci sia un limite a tutto, a 34 anni posso anche capire che possa essere disoccupato, eccetera, eccetera. Però insomma, gente che sono anche dei professionisti, si stimano di dire, io da ragazzo andavo a lavorare al mare, a fare il cameriere, a fare il bagnino, eccetera, eccetera. Non si può mantenere un figlio se non lavora, come cosa da dire? Non potrei, non ho sbagliato a dire così. Molti ragazzi comunque già si mantengono da soli. È un bel dilemma, è un dilemma che prima o poi attraversa tutte le famiglie. Fino a che età dobbiamo mantenere i figli? I figli, si sa, noi li manterremo tutta la vita, ci toglieremo il pane di bocca, ci rinunceremo a qualunque cosa. Non è nemmeno un sacrificio, viene normale, viene distinto. Una cosa prima la dà il figlio, poi vedi se resta qualcosa da è per te. Ma però a volte si pongono i problemi, soprattutto perché non tutti i matrimoni sono indissolubili. Poi alla fine, quando si separano i genitori, a qualche genitore tocca mantenere anche questo onere per tempi lunghissimi. E poi i figli crescono, poi a un certo punto uno vuole rifarsi una vita, uno a un certo punto vorrebbe essere alleviato perlomeno da questo obbligo giuridico di mantenere i figli. Perché lo dico questo? Perché non c'è certezza. Non si sa in Italia fino a che punto noi siamo obbligati a mantenere i figli. Dato per scontato che tutti amiamo i nostri figli, ma a un certo punto qualcuno potrebbe anche venire in mente, cioè figlio mio, ormai sei grande e grosso, comincio ad avere i capelli bianchi, se permetti queste poche risorse che mi rimangono le uso per vivervi un po' anche la mia vita, sarebbe lecito, non è che uno si deve sentire condannato da un obbligo di estremo eterno sacrificio verso i figli. Lo dico perché oggi mi ha colpito un articolo sul Corriere della Sera di Elvira Serra, dalla prima pagina poi segue nelle pagine interne di Cronache, dove cita il caso di un padre di Modena, dice uno scrittore, quindi già un lavoro che in sé non è un lavoro che abbia un reddito fisso, sicuro, certo, sempre legato al momento, all'estero, al mercato, alla tua vena creativa, a come naturalmente gli editori ti propongono, le chance che ti danno. Comunque può essere un buon lavoro, ma un lavoro che non ha certo una rigida certezza di introito. Questo padre a un certo punto si trova un figlio di 28 anni che lui deve continuare a mantenere, è un padre che mi sembra che sia divorziato, quindi deve per obbligo mantenere anche il figlio, per obbligo del giudice appunto matrimonialista. Il figlio ha già 28 anni, il figlio ha fatto una triennale di lettere. A 28 anni ha fatto 3 anni di lettere, non è che proprio si sia ammazzato, abbia scelto un indirizzo che sicuramente gli darà la certezza di potersi mantenere. Finita la triennale a 28 anni, invece di continuare per avere il titolo con la laurea magistrale, cioè di farsi altri 2 anni, ha detto no, io voglio fare qualcosa di creativo, voglio fare un corso a Bologna di cinematografia sperimentale. Quelle cose lì che a 28 anni, se ancora devi fare un corso di cinematografia sperimentale, vuol dire che questo non è il tuo mestiere, perché oggi uno che ha in sé l'estro, la capacità, il desiderio e l'occhio di potersi occupare di cinema lo inizia a fare già a 15 anni con il proprio smartphone in mano. Quindi a 28 anni si è inventato quest'altra cosa, quindi vuole essere mantenuto a Bologna, deve andare a Bologna e fare la cinematografia sperimentale e finirà dopo i 30 anni. Il padre dice a un certo punto, ma scusa, che devo mantenerti a fare sta cazzata che non ti servirà a niente, ma io mica sono la Banca d'Italia. A un certo punto ha provato a chiedere il diritto di non pensare più a quelli che ormai sono i capricci del figlio, non è quello che farà per mantenersi a vita. Beh, pare che invece sia stato obbligato a mantenergli anche questa cosa qua. Su questo oggi chiederemo lumi a degli esperti, ma vorremmo anche porre la domanda a chi ci ascolta. Siate voi figli in età di mantenimento o abbiate superato l'età di mantenimento obbligatorio per convenzione comune? Siate voi genitori che avete per le mani queste patate bollenti che non decidono mai di seguire la loro strada? Secondo voi qual è l'età massima per cui un genitore possa in piena coscienza e senza che nessuno possa puntargli il dito contro dire beh da oggi non ti mantengo più, arrangiati? 800 24 0024. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Deve dare per scontata la ricchezza ed ognuno di noi è artefice del proprio destino, senza attingere al portafoglio di papà per vivere alla grande. È questo quello che avrà pensato Sting, che ha deciso che la sua eredità non andrà ai suoi 6 figli, ma in beneficenza. Spiega che non si tratta di tirchieria, ma solo un modo per educarli, per prepararli alla vita. Sting d'altronde è figlio di un lattaio e di un'infermiera e lui ha trovato da solo e con fatica dopo anni a cantare nei pub una strada di vita ed è quello che vuole che facciano i suoi 6 figli, tanta gavetta. Il suo patrimonio, che ammonta a 250 milioni di euro, non sarà diviso tra i suoi piccoli eredi che dovranno invece lavorare duro per crearsi un'identità. Certo, sarebbe troppo facile nascere figli di Sting e poi dire io la vita mi sorriderà fino alla fine dei miei giorni. No, siccome lui ha iniziato facendo il lattaio, è una persona che comunque si è costruito da solo, dice, i miei figli saranno essere persone con una cognizione concreta di quella che è la vita, dovranno procurarsi da soli i mezzi, troppo facile, e i fantamiliardi che ho da parte non glieli do. Questa sembra una buona soluzione, ma in realtà poi non è così. Già vedo dai messaggi che arrivano, i figli sono pezze core, i figli vanno tenuti sempre vicini. Ci sono figli di 70 anni che vivono con i genitori di 97 anni, in villi di 2 piani, e che hanno aggiunto il 3° piano. E non sa mai lavorare. Beh, se i genitori li mantengono, possono farlo. Non è il caso i genitori consenzienti che piacevolmente dedicano la loro vita al mantenimento dei figli. È il caso inverso, quando un genitore comincia a porre un po' il problema di vivere anche un pezzettino della sua vita lecitamente, con tutto quello che ha lavorato, faticato e sudato. I figli non possono essere delle eterne sanguisughe che ti prosciugano mantenendoti quel tanto poco in vita che serve a loro poterti dare la succhiatina quotidiana. Deborah, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Come la vede? Ma io, se avessi i soldi di Sting, sicuramente lascerei un qualcosa in eredità, insomma mi sembra una follia, questi sono artisti e in quanto tali sono anche un po' folli. Vabbè, lui dice una cosa sacrosanta, sarebbe facile oggi mantenergli una vita lussuosissima giorno per giorno. Si ricorda, abbiamo fatto una trasmissione un tempo fa col figlio di Paolo Villaggio, che ha avuto una vita travagliata e molto dura, poi ha detto io da piccolo non mi mancava nulla, stavo in una villa pieno di servitù, qualunque cosa desiderevo, volevo una figurina, mio padre mi comprava l'intera edicola di figurine, e infatti ho preso delle strade molto pericolose, proprio perché non avevo la cognizione di guadagnarsi le cose con la propria fatica. Non mi sembra un ragionamento poi del tutto sbagliato quello di Sting. Lei cosa pensa? Assolutamente no Gianluca, sono d'accordo, però certo, se un calcetto nella vita un figlio glielo puoi dare, insomma non si nega a nessuno, soprattutto a un figlio, però senz'altro è un buon metodo per spronarli a costruirsi con le proprie mani, sbattendo, come si suol dire, il muso sulle proprie scelte e quant'altro, però insomma, un aiutino, una casa, un appartamento sicuramente. Ma se non ce l'ha chiaro, uno si dice all'inizio, poi comincia a costruirlo, ma figuriamoci, oggi nessun figlio potrebbe comprarsi una casa con il suo lavoro, no. Se non a 70 anni forse. È impossibile, quindi questo certo è chiaro. Però io parlo della case history che abbiamo sollevato, presa dal Corriere della Sera, di cui poi entriamo nei particolari. Un figlio che ha 28 anni chiaramente ha poca voglia di impegnarsi per il proprio mantenimento, se no non fa una triennale lettere e poi improvvisamente va a fare il corso di cinematografia a 30 anni, capito? Quindi non ha nessuna intenzione di lavorare per mantenersi. Il padre giustamente dice, devo continuare io ancora per il resto della mia vita a mantenerti. Questo è il caso di cui parlavamo. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Guardi, io personalmente penso che lì sia un po' colpa del padre, che avrebbe dovuto mandarlo a lavorare quando aveva 14 anni, almeno d'estate. Sì, a parole si dice. A parole, ma guardi che tanta gente però lo fa, io l'ho fatto, probabilmente lei lo ha fatto. Ma lei quanti anni ha? Lei non è un giovane. No, io ho 52 anni, ma i miei nipoti uguale, io faccio lavorare con i miei nipoti, cerco di insegnargli, non ho figli purtroppo, cerco di insegnargli il valore del lavoro, lì è colpa del padre. Poi interviene anche la legge italiana, che secondo me ad un certo punto, quando uno, Dio santo, ha 22 anni, se non è capace... Qua era 28, qua è 28 anni. Sì, ma a 28 anni peggio, cioè, ma lo lascio in mezzo a una strada senza niente, Guardi, dipende, Angelo, bisogna essere in questo. Un figlio che ha 20 anni, 21 anni, se fa un'università, una facoltà molto impegnativa, in effetti non ha tempo di lavorare. Lo dico per esperienza, ci sono delle università che uno entra la mattina e esce la sera, c'è esami continuamente, parlo di università non italiane naturalmente, capito? In cui è talmente forte l'impegno, talmente stressante, se tu fai assenza più di qualche giorno perdi il diritto a fare il corso. I ragazzi sono ossessionati in senso positivo dalla frequentazione dell'università, in quel caso tu fai una scelta. Io mi sveno per far fare a mio figlio gli studi qualificati, mio figlio però deve pensare solo a studiare in quegli anni, non può pensare a fare il lavoretto perché torna a casa la sera, deve studiare per il giorno dopo, è un'altra situazione. Poi non mi sembra sia il caso di fare una triennale in lettere a 28 anni, vuol dire fare quello che ho fatto io in gioventù, dare un esame all'anno e perdere tempo. Io sono stato un perditempo terribile, ho fatto una pessima università, ero un pessimo studente e sono stato veramente un lazzarone fino all'età di 30 anni, quindi non voglio fare la morale a nessuno, capisco però cosa possa significare. Gianetto Regassani, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Allora, Gianetto Regassani, ricordo, presidente dell'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, autore del libro Vi dichiaro divorziati, come cambia il matrimonio in Italia, imprimatore editore, aveva già scritto I perplessi sposi, che è stato un best seller. Io ho visto, Gassani, che è stata proprio l'associazione AMI che tu presiedi che ha lanciato questo caso del ragazzo di Modena. Ci spieghi un pochino nei particolari di cosa si tratta e qual è veramente la lacuna giuridica in questo caso? Al di là di questo caso c'è un problema giuridico molto importante, cioè la Cassazione da anni ha sancito un principio che può essere condivisibile fino ad un certo punto, cioè praticamente i figli maggiorenni possono essere mantenuti sine die, cioè senza un termine, anche a 40 anni, quando non riescono a trovare una propria collocazione nel lavoro. Tutto questo non è condivisibile anche alla luce di quello che succede negli altri Comunque questa sentenza fa proprio legge, cioè io ho un figlio di 60 anni che non fa una mazza, sono costretto a mantenerlo. Non posso dire che non ci sono limiti. Noi come associazione avvocati matrimonialisti, perché molto spesso ci troviamo anche a difendere padri e madri trascinati in giudizio dai figli, ci rendiamo conto che c'è chi ci marcia attorno a questo principio, per cui in alcuni casi capisco la crisi economica, quanto, però c'è anche un atteggiamento da uomini seduti, da gente di 35 anni che fa avvertenze a genitori, quando noi ricordiamo che le nostre generazioni a 18 anni si andava a lavorare se volevi studiare. Non voglio arrivare a questo, ma pensare che a 28, 30, 35 anni si possa dire un giudice o che l'altro coniuge possa in qualche modo avallare a volte i capricci di un figlio già maturo, abbondantemente maturo, questa cosa non è condivisibile, perché negli altri paesi per esempio sarà stabilito un limite. Allora fermiamoci un attimo qua. 26 anni e altri 28. Perché l'argomento è molto interessante e vorrei ancora sfruttare il tempo dell'avvocato Gassani, perché ho varie domande da fare, ma le faremo dopo, la pausa per le notizie a borsa. Mi interessa sapere, intanto rifletta l'avvocato Gassani, sarà la domanda però dopo. Queste sono delle circostanze, sono venute fuori perché in Italia ormai il matrimonio comincia a essere una circostanza che non è più così strettamente obbligatorio che duri per tutta la vita. Quindi quando ci sono delle coppie che divorziano viene fuori il problema. In realtà le coppie che ancora stanno assieme, sono famiglie unite, secondo un modello tradizionale, il problema non si pone. I genitori non chiedono di meglio che mantenere i figli, perché mi scrivono delle persone dicendo ma cosa dici Nicoletti, cosa pensi, i figli tutta la vita dobbiamo mantenerli. No, non sono molto d'accordo. A un certo punto c'è il lecito diritto da parte di un essere umano di dire no, oggi penso anche alla mia vita, a te ho dedicato i tre quarti della mia vita, l'ultimo quarto è per me. 800 24 00 24, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Papà, me ne dai 5 euro? 4 euro? Che devi fare con 3 euro? Non ti bastano 2 euro? Tieni un euro, dividilo con tuo fratello e poi te il resto. (ride) 800 24 00 24, ci poniamo una domanda lecita: è possibile che il nostro diritto a non mantenere i figli vita natural durante sia sancito dalla norma della Cassazione che dice che no, in effetti Non è così. Finché i figli sono vivi dobbiamo mantenerli. Se un figlio decide di non far niente tutta la vita, sta a noi mantenerlo e garantirgli la sopravvivenza. Questo ci sembra eccessivo e ne parliamo oggi con l'avvocato Gianettore Gassani, presidente dell'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, e ne parliamo anche con il nostro pubblico, a cui ho posto la domanda su dove è giusto mantenere i figli a vita per legge, o esiste un termine indicabile, 18 anni, 20 anni, 30 anni, la caduta dei denti del giudizio, l'uscita dei denti del giudizio, i primi capelli bianchi, il primo esame della prostata. Non so esattamente quale possa essere il metro per giudicare quando a un certo punto non deve mantenere più un figlio, oppure per le donne potrebbe essere, che ne so, la menopausa. Quando una figlia va in menopausa, basta, non si mantiene più, ormai chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Devo sottolineare un'ascoltatrice che mi scrive inviperita. In rete li chiamano i gran marnazzi, sono quei maniaci che non hanno altro da fare nella vita che sottolinearti quando sbagli un accento o sbagli una parola. In questo caso lei dice infuriatissima, signora, usi la sua furia per cause più degne di applicarla. Avrei detto, ci sono delle università che uno entra la mattina e esce la sera. Nicoletti, non ci sono università in cui i somari come lei non dovrebbero nemmeno mettere piede. È infuriata. Bisogna dire università in cui si entra la mattina e si esce la sera. Signora mia, venga lei, stia lei davanti a un microfono, improvvisando argomenti, ragionando, inanellando pensieri, gestendo il pubblico. Questo è il mio mestiere, e può capitarci e può starci che nella lingua parlata ci siano delle semplificazioni. La lingua non è qualcosa di tetragono, di inattaccabile, è qualcosa che, grazie a Dio, uno può in pieno ossequio del paroliberismo futurista reinventarsi ogni giorno. A me mi andava a dire università che, e poi via, non la faccia tanto lunga, vada a soffriggere la cipolla. Deborah, buongiorno. Buongiorno di nuovo, sì. Gianluca, eccoci. Io volevo intervenire... Sì, volevo aggiungere delle cose, ma siamo qua. Sì, volevo aggiungere, mio figlio ha 17 anni e mezzo e già da un anno va a lavorare, iniziando dai primi di maggio, come cameriere in un ristorante, nonostante la scuola ancora appunto non sia terminata. E la mattina poi si sveglia prestissimo, si fa la doccia, nonostante poi in quelle serate in cui lavora dorma forse 3-4 ore. È una cosa, Deborah, questa è una scelta, una sua libera scelta, o lei impone a suo figlio questa sorta di training alla vita? Assolutamente no, è una sua libera scelta, perché non vuole pesare sull'economia familiare. Io sono separata, e dice: io voglio essere indipendente, non voglio a 17 anni, lo scorso anno 16, chiederti mamma ogni volta dammi 20 euro, 5 euro per la birra, 5 euro per la benzina per la sua macchinina. Le faccio un'altra domanda, Deborah, perché mi è arrivato un altro messaggio di un'altra madre. Cioè, mio figlio sta facendo una specializzazione, un ragazzo che ha studiato, sicuramente non è uno che ha perso tempo, però la sera va a consegnare le pizze per i ristoranti. Cioè, io che sono mamma, però questa cosa mi mortifica tanto, mi angoscia, mi fa star male. Io ho risposto, mentre andavano le informazioni della borsa, dico: io da ragazzo andavo a lavare le macchine e a fare il pompista in una stazione di benzina. Sono i ricordi più belli che ricordo. Toccai con mano quello che era il parlare quotidiano dei pompisti alle pompe di benzina. Ho imparato più cose in quegli anni, non lo sentivo come un peso, una cosa mi divertiva. Sì, affaticava, ma la sera tornavo a casa con le mani sporche, ero contento. Quindi lei in qualche maniera si sente mortificata da questa cosa, oppure pensa che faccia parte del necessario bagaglio di vita che deve accumulare suo figlio? No, io non mi sento affatto mortificata, anzi apprezzo questa sua scelta e credo che sia formativa. Ritornando al discorso di prima, ognuno di noi deve, chi prima o chi dopo, capire quelle che sono le proprie potenzialità e fin dove ci si può spingere. Lui, ripeto, quando va a lavorare dorme poi la notte forse 3 ore e mezza, 4, però l'indomani mattina è fresco come una rosa, si beve un caffè, se ne va a scuola, si sta diplomando. E nonostante tutto gli insegnanti mi dicono che è uno dei migliori studenti che c'è a scuola. Le sta dando soddisfazione, ha investito bene in suo figlio, sono contento. Oggi speriamo che i giovani siano attirati da questa telefonata, che in qualche maniera dà l'idea che non sono soltanto un ammasso di fannulloni. Angelo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, dottor Nicoletti. È un giovane lei, Angelo? Io ho 35 anni. Beh sì, ancora un giovane, certo, è giovane. No, scusi, ma io sono molto fiero del pubblico giovane. Sì. Scusate con questa cosa qui, ma siccome mi stanno tartassando mi rivolgo un po' tutti i programmi di Radio 24, perché sono abbastanza interessato. Va bene, lei è un giovane attivo. Allora dica qual è la sua storia. Niente, io sono figlio di separato, ho fatto lo superiore, l'università purtroppo, sono figlio di operaio, non me l'ha potuta purtroppo pagare. Ci sono anche figli di operai, non è che esatto, non me l'ha potuta pagare mio padre. Quindi come se l'hai mantenuta? Lavorando la sera, la sera e la notte, e il giorno dopo andavo all'università. Ho fatto un'università scientifica, parliamo di farmacia, quindi non è un'università, diciamo, un corso di laurea, diciamo, da quattro soldi. Beh, però si è anche trovato una chance di lavoro più certa rispetto che fare il corso degnissimo di cinematografia sperimentale. In Italia siamo pieni di cineasti sperimentali, però non è che svoltano il paese. Non è da declassificare nessun corso di laurea se fatto seriamente. Bisogna vedere la persona se lo fa. Ecco, lei ha figli, avrà figli, immagino. Pensa avere figli? No, non ho ancora avuto figli, non sono sposato, ma sono felicemente fidanzato da 5 anni e come dicevo, sono riuscito a seguire l'università, ho avuto un po' di... No, solo mi viene la curiosità di sapere lei cosa farà un domani con un probabile eventuale figlio, come si comporterà. Sicuramente gli dirò di guadagnarsi quello che vuole, non darò nulla gratuitamente, nel senso, in modo scontato. Mio padre è stato molto severo con me, a volte mi poteva dare cose che non mi ha dato. Però alla fin fine non è stato così un male, perché mi ha dato la possibilità di darmi da fare. Si è dato da fare. Sì, mi ha detto, dati da fare per ottenere quello che vuoi. Puoi uscire la sera, prenderti una pizza, guadagnatelo. E io così ho fatto. Cosa ha fatto oggi? Oggi è parzialmente, per quanto è possibile essere nella condizione umana, soddisfatto di se stesso. Luca, buongiorno. Buongiorno, salve. Quanti anni ha lei? Quanti anni ha? Io ho 23 anni. Beh, sta calando in maniera vertiginosa l'età media dei nostri ascoltatori. Non posso far più di così. Prego, 23 anni, Luca. Sì, niente, a parte il caso estremo che voi oggi, quello lei veramente, il padre ha ragione, perché vuole solo un capriccio del figlio. Però appunto non è questione di generalizzare, perché appunto è anche la società che ci impedisce di poter andare a vivere da soli. Perché tipo io mi farei benissimo la mia vita, se troverei un impiego giusto. Io sono un ragazzo che si impegna, che faccio 3.000 concorsi, ultimamente ho lavorato per la regione, ma anche qualora la regione non mi pagava, mi dava ancora, aspetto soldi da tanto tempo, quindi diciamo che è anche un po' la società che ci impedisce, diciamo che è di difficile. Poter farci. Però vede, questa mattina Luca stiamo presentando uno spettro abbastanza ampio. È indubbio, e non sarebbe stolto da iperfighetti che non conoscono la realtà dire che è facile, che è particolarmente facile, è difficilissimo, è improbo, però nelle difficoltà ci sono forme di atteggiamento diverse. Abbiamo sentito poco fa il farmacista, figlio d'operaio, che comunque si è dato da fare. Non siamo quelli che dicono perché i giovani non si danno da fare. I giovani hanno grossissime difficoltà, però in queste difficoltà si presentano anche vari scenari. Abbiamo recuperato l'avvocato Gianettore Gassani. Allora Gassani, riprendiamo il caso da cui siamo partiti. Questi casi accadono perché oggi, diciamo, è molto più facile trovarsi davanti a un tribunale a decidere chi si occupa dei figli, o anche nella famiglia tradizionalmente concepita è un problema che ci si comincia a porre? Ma sì, ci sono 7 milioni di ragazzi che hanno superato i 30 anni che vivono in casa, che sono mantenuti dai genitori, e quando c'è una sorta di spaccatura della famiglia, questo status di figlio privilegiato deve continuare, e la giurisprudenza ha dato ragione a loro. Credo che ultimamente qualche giudice di qualche tribunale un po' più così moderno, oculato, abbia stabilito comunque dei paletti. Il problema non si pone soltanto nei confronti delle famiglie di genitori separati. A volte il figlio fa causa ad entrambi i genitori che non sono separati quando ritiene di dover avere la cosiddetta paghetta, una sorta di mancanza. Ah, esistono dei casi in giurisprudenza di figli che fanno causa ai genitori? Sì, sì, come no. Tantissimi casi in cui i figli fanno causa a entrambi, cioè padre e madre. Ci sono già delle sentenze su questo? Assolutamente sì, sono assolutamente conformi, che poi il principio è sempre lo stesso, non è soltanto nei confronti del padre che si agisce nei confronti di chi è tenuto, secondo loro, e purtroppo secondo la giurisprudenza, a pagare un assegno. Attenzione, un conto è mantenere un ragazzo volenteroso che fa gli esami, che può anche andare fuori corso, che può avere avuto delle difficoltà, ci mancherebbe altro, una rigidità non sarebbe giusta. un conto è vedere gente di 34-35 anni che paga i servitori. Però scusami Gianetto, noi stiamo dando un'informazione che è una, un'arma da serial killer in mano ai ragazzi. Questa sentenza della Cassazione, se fa giurisprudenza, qualunque figlio trentenne fa caso ai genitori per essere mantenuto, vince la causa alla fine. Ma non è sempre così. Innanzitutto bisogna che il figlio dimostri di essersi comunque attivato per studiare, che non perda tempo, che non sia un burlone. Per cui in alcuni casi la giurisprudenza sancisce che per esempio un ragazzo che è arrivato a 30 anni ha fatto 3 esami o va a lavorare o niente. Il problema si pone quando hai ragazzi che studiano ma non sono particolarmente veloci. A quel punto, come è successo, il giudice ha voluto dare una sorta di ultima chance a questo ragazzo e quindi credo che questo abbia creato un bel paio di polemiche. Personalmente, se noi non creiamo delle norme precise, affideremo ai giudici e quindi alla del singolo giudice la decisione. Se sta benissimo per esempio un limite d'età di 28 anni oltre il quale non si mantiene più un figlio, secondo me risolveremo tanti problemi. Per esempio, ogni tribunale adotta dei criteri diversi, non dimentichiamolo. Per esempio nei tribunali del centro nord c'è più la professione ad aiutare i ragazzi anche a 30, 32, 35 anni. In altri tipi nel centro-sud si è molto più severi da questo punto di vista. Quindi credo che se non creiamo una giurisprudenza e con tutta una normativa codicistica precisa, non usciamo più fuori. Credo che c'è anche un problema di fondo culturale, lo dicevi tu prima, egregiamente. Le famiglie, tra virgolette, normali, non disgregate, mantengono i figli fino a 35-40 anni, i cosiddetti bamboccioni, vitelloni. Anche perché, Gianetto, tu me li insegni, mantenere un figlio fino all'età adulta diventa anche il collante di una famiglia che altrimenti prenderebbe altre derive. C'è il figlio, in fondo stiamo insieme, manteniamo il figlio, o sbaglio? Esatto, ma soprattutto il fatto che certa gente non accetta che il figlio possa prendere anche la propria strada. Ci sono genitori che in qualche modo obbligano, tra virgolette, questo psicologico dei figli a rimanere lì. Hanno paura della sindrome da nido vuoto, cioè avere i figli che vanno via per due coniugi significa la fine di un progetto, a volte ci si lascia. A volte non c'è più una ragione di esistere. Avere anche un ragazzo di, tra virgolette, di 35 anni a cui fare la zuppa di latte la mattina, per alcune famiglie è tutto. E purtroppo invece bisogna capire che i ragazzi a 18 anni, come succede in Svezia o in Danimarca, vanno via di casa, tutti vanno via di casa. In Italia a 35 anni dormono da mamma. E non dimentichiamo che il fenomeno dei mammoni nel nostro paese è un fenomeno che fa ridere tutto il mondo. Ci sono anche le mammone, diciamo la verità, sono ragazze sul filo dei 50 anni. Però che ancora ogni giorno devono dire ai genitori che fanno dalla mattina alla sera. Però, statisticamente, insieme ai bulgari e agli spagnoli, siamo quelli che rimangono più a casa, ma è più un fenomeno maschile. È più il figlio maschio legato in maniera viscerale, quasi incestuosa alla madre, e si arriva a questi eccessi. Addirittura quando questi si sposano, magari fanno 50 telefonate al giorno della mamma. Fermo un attimo da lasciare la linea, riprendiamo tra un istante. 800 24 00 24. Melog, cronache meridiane. Siamo arrivati a una conclusione. In realtà c'è una lacuna nel nostro ordinamento giuridico. Non c'è un termine usato, esatto, inequivocabile, comune a tutto il paese, dalle Alpi alle Piramidi, in cui i genitori possono dire: dopo quest'età io non penso più al tuo mantenimento. Suggerisce l'avvocato Gassani, presidente dell'AMI, Associazione Avvocati Metronomisti Italiani. Facciamo 28 anni. 28 anni è una buona età in cui uno può dire: oltre questa età ho dato veramente tutto ciò che si può dare a un figlio, ti arrangi, sono fatti suoi. Perché ancora, in realtà, per una sentenza della Cassazione, un figlio anche di 50 anni può dire ai genitori: guarda, io mi sono dato da fare, vado tutti i giorni all'ufficio di collocamento, ho fatto tante domande, è il mondo che ce l'ha con me, quindi devi mantenermi. E oggi a tutti gli effetti i genitori devono mantenerlo. Voi come la pensate? Francesco, buongiorno. Buongiorno, ciao, sono in linea? Sì, quanti anni Francesco? Ciao, chiamo da Velletri, provincia di Roma, ho 20 anni. Bene, sta calando sempre di più, io sto andando al ribasso, voglio arrivare al ragazzo che ha appena imparato la lallazione, che mi chiama e mi dice: oh, la mamma, papà, è il pubblico giovane. Prego, dimmi Francesco. Ciao, guarda, volevo un attimo riprendere, spero sia possibile, un argomento relativo a questo che stavi parlando, sì. Che ho sentito parlare poco fa. Se non sbaglio, avevi detto, stavamo parlando di Sting, quindi il suo patrimonio che non lascerà nulla ai figli, che forse tranne rare eccezioni, e forse forse è impossibile che un ragazzo da zero, senza diciamo contributi patrimoniali, mettiamolo un po' così, possa comprarsi casa da zero e quindi realizzarsi o fare un progetto. Deve avere un lavoro molto ben retribuito, perché oggi un mutuo minimo costa caro, almeno parlo dei parametri di una città come quella di Roma. Oggi una casa in Roma mediamente costa varie centinaia, migliaia di euro. Per accendere un mutuo e lavorare allo stesso tempo mantenersi occorre un bello stipendio molto alto. La fascia media degli stipendi italiani rende difficile questo. No, io mi rendo, guarda, secondo me, diciamo, mi trovi parzialmente d'accordo con le tue affermazioni, ma soltanto per una categoria di giovani che mi posso permettere, tra virgolette, nel mio piccolo, di enunciare, visto che la vivo tutti i giorni all'università, comunque sto a contatto con molte persone. C'è una grande parte di ragazzi che, diciamo, secondo me non ha un'ottica ben delineata del proprio futuro. Nonostante vada all'università, magari ragiona a breve termine, sei mesi, che è giusto incentrarsi sul presente perché costruisci il futuro, ma chiaramente avere un attimo un orizzonte un po' più largo ti permette di orientare meglio le tue scelte. Invece ci stanno ragazzi che proprio stanno così, un po' alla deriva, e allora molto probabilmente, spero di no per loro, però chiaramente in questi tempi, se uno non riesce un attimo a delineare determinati obiettivi... Ma cosa vuol dire, Francesco? Che in realtà se uno progetta in tempo, la casa se la può comprare, questo... Esatto, cioè nel senso io penso che non sia giusto quello che hai detto parzialmente per una buona categoria di ragazzi che comunque tutti i giorni... Ma se tu devi lavorare per pagare... Senza... Ovviamente. Togliamo la casa madre, noi diciamo in autonomia. Tu dall'università puoi dire: io studio perché vorrei lavorare. Benissimo, voglio lavorare perché voglio sposarmi la ragazza che amo, fare casa e fare figli. È un progetto anche questo, oppure comprarmi una casa, farci la più bella garçonniere del quartiere, farci fatti miei, comunque sia. Però questo deve avere un corrispettivo concreto e reale, se no sono soltanto sogni. Ma infatti io non sto dicendo che non le case si comprino così con l'aria fritta, semplicemente dicendo che è possibile, secondo me, non arrivare, magari da quello che ho capito, come dici tu, magari 60-70 anni e ancora non si è concluso niente, ma c'è una buona parte di ragazzi che conosco che, nonostante magari ancora non abbia finito gli studi, già sta intessendo i giusti contatti, sta aprendosi le proprie strade, i propri orizzonti, e io sono convinto che questa... No, tu dici una cosa sacrosanta, sai, detta da un giorno ha più senso, detta a me sembra il solito privilegiato, tu ce l'hai fatta, la tua generazione ce l'ha fatta, per noi è più difficile. Tu dici che nelle maglie strette, difficili della contingenza che stiamo vivendo, comunque sia, pensarci in tempo, pensare in maniera giusta, affina le strategie. Hai detto una cosa giusta, senz'altro. Mirella, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, che piacere. Spenga la radio però, così sì, il piacere è più intenso. Prego Mirella. Siamo invecchiati insieme io e lei. Ma lei è invecchiata, io sono giovanissimo, parli per anch'io, lei. Anch'io. No, volevo dire che il problema è dei genitori. Racconto in sintesi la mia storia. Io ho due figli a 20 anni fuori di casa tutti e due. E non è che poi siano andati sotto un ponte, perché sono bilaureati e tutto quanto. Però io mi sono dovuta scontrare con tutto ciò che è il sentire comune. Ma come? Ma come li educhi sti figli? Ma perché? Ma non li vuoi bene? Oh sì che li voglio bene. Ma lei, Mirella, se ascolta il sentire comune, non troverà mai qualcuno d'accordo su quello che fa lei. Quindi... Nicoletti, lei vive in un ambiente, io ne vivo in un altro, quindi lasci perdere. È dura sentirsi dire. Cioè, ma chi l'ha preso? Dai parenti, dalle suocere, dalle zie, dalle vecchie megere? Ma tu non le vuoi bene a sti figli, ma perché? Ma io credo che l'autonomia è l'autonomia, al di là della casa, che sono, scusi, si può dire a quest'ora, minchia. Ma cos'è il comprarsi la casa? In primis c'è la... Ma cos'è? Non ho capito la parolaccia che ha detto, non l'ho capito. No, la ridica, perché... Cosa ha detto? Ha detto scusi ho se... Ho detto che il comprarsi la casa sono minchiate. Ah, minchiate. Ah, tutto qua. Pensavo chissà cosa avesse detto. Allora, l'ha detto a bocca stretta, quasi non volesse dirlo. In primis c'è l'autonomia personale, e l'autonomia personale si evolve solo e si esplicita nelle difficoltà. Quando tu le prepari... Ma ferma Mirella, devo segarti, mi dispiace. Senti il taglio della motosega sulle tue giovani carni. Stefano, una battuta soltanto, dice una cosa fondamentale. se una battuta, ciao sì. Nicoletti, niente, sposo completamente quello che ha detto la signora prima. Sì. Perché le colpe di genitori ricadono sui figli. Sì, ma lei dice una cosa molto precisa che sta molto a cuore all'avvocato Gassani, ci ascolta. Cioè, le madri separate molte volte tengono i figli a casa perché continuano così a avere gli alimenti. Sì, assolutamente sì. Fortunatamente per ora non sono separato, ma da quello che si sente da tanti numerosi amici separati che ho e dalla sentenza di Cassazione, questi figli li mantenete fino a 50 anni. Perché lo dicono loro. Gassani, insomma, vediamo se riesce a confermarci o smentirci. È vero che si tengono i figli a casa perché è l'ostaggio per continuare a essere mantenuti con gli alimenti dall'altro coniuge? Beh, molte volte succede questo. Spesso gli assegni per i figli diventano gli assegni per tutto il nucleo, e quindi anche per la madre o anche pochissime volte per il padre. Questo è vero. Io ripeto il discorso di prima, il limite di persone... che non ci sia una dichiarazione di inabilità al lavoro, ovviamente, non è che se un ragazzo e non è abile al lavoro tu non lo mantieni, ci mancherebbe. E questo lo voglio precisare perché qualcuno potrebbe dire a 28 anni sei rigido, no, 28 anni se sei una persona che aveva le forze o di lavorare o di studiare, se sei inabile al lavoro è chiaro il mantenimento per tutta la vita, non si discute. Conosciamo la materia, grazie avvocato Gassani, è molto chiaro. L'AMI, per la voce del suo presidente, dice 28 anni è il limite massimo, dopo 28 anni ognuno deve essere in grado di prendere la sua strada. Questa è la conclusione. A domani.